Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Io adoro le storie che fanno discutere, le storie in cui le chiavi di lettura sono più di una. Qui abbiamo una donna che potrebbe essere definita una seduttrice, un'icona di stile, ma anche una fredda arrampicatrice sociale, una donna che ha cambiato il corso della storia. Bisogna partire da una domanda però: cosa sareste disposti a fare per amore? E non parlo di un amore di una madre per un figlio, parlo proprio dell'amore, perché l'amore è vero che muove il mondo, ci fa battere il cuore, ci fa piangere, ridere, fare chilometri, non ci fa dormire, però a che cosa si può rinunciare per amore? Bene, questo dipende da chi è l'oggetto del nostro amore, da quanto lo amiamo. Io vi voglio raccontare la storia di un uomo che per amore, e questa è un'altra stranezza, perché in genere sono le donne che rinunciano a qualcosa, non so, alla carriera per un uomo. Qui stiamo parlando di un uomo che rinuncia per amore addirittura alla corona d'Inghilterra. I have found it impossible. Trovo impossibile portare il gravoso peso delle responsabilità e svolgere i miei doveri di re così come vorrei fare senza l'aiuto e il supporto della donna che amo. Of the woman I love. Avete capito bene, un re che pubblicamente dice: trovo impossibile svolgere i miei doveri di re senza la donna che amo. E probabilmente le donne in questo momento si staranno commuovendo. Beh, la storia ha più chiavi di lettura e stiamo parlando comunque intanto di un'abdicazione che sconvolse il mondo in quel 10 dicembre 1936. Una grande rinuncia, insomma, rinunciare al trono d'Inghilterra. Il discorso viene pronunciato da quello che era re Edoardo VIII, sarebbe lo zio dell'attuale regina Elisabetta, sovrano da soli 326 giorni. Bene, finalmente dobbiamo dirvi di chi stiamo parlando. Stiamo parlando della donna che gli fa compiere questo gesto, un gesto folle che lo fa scendere da uno dei troni più prestigiosi e potenti del mondo. Questa donna è la nostra protagonista di oggi, criticata, discussa, odiata da una parte del popolo inglese che l'accusava di avergli rubato il re, una delle donne anche più amate della storia per essere stata preferita ad un regno. Il suo nome è Wallis Simpson. Go to church, quiet as a mouse. You're a big cheap stab in the warehouse. Spoke of fractions of the treble clef. I wish you love with a capital F. Self-made mug is hard to break. Silent partner in someone else's mistake. È una storia di cui ha parlato il mondo e la cui eco rimane ancora oggi. Vi sarà capitato di vedere qualche foto, la foto di Edoardo e Wallis, il duca e la duchessa di Windsor. È una coppia esageratamente elegante, due personaggi pieni di charme, di stile. Lui è un bell'uomo, piacente, biondo, alto, magro, sempre vestito con i meravigliosi completi di principe di Galles, la famosa stoffa a quadrettini che prediligevano sia lui che suo nonno, intanto da prendere il nome dal loro titolo nobiliare. Poi c'era lei, Wallis Simpson, una donna forse non bella, ma eclatante in ogni sua movenza e in ogni sua scelta, con un look, un'immagine che segnò la moda, rappresentò il modello che tutte le donne volevano seguire. Ascoltate Amy Fine Collins, che è la corrispondente speciale di Vanity Fair, cosa dice di lei. Wallis Simpson aveva detto: so che non posso essere la donna più bella del mondo, ma posso essere la donna meglio vestita del mondo. E lo era. Il modo in cui si pettinava e in cui si vestiva era copiato da tutti. Non cambiò mai pettinatura, riga in mezzo e chignon sulla nuca. Si dice che rifacesse la messa in piega 3 volte al giorno. Non aveva mai un capello fuori posto o la riga storta. La duchessa di Windsor aveva il fisico perfetto per indossare abiti di alta moda. Spalle larghe, poco seno, fianchi stretti. Spendeva un'enormità in vestiti e gioielli. Qualsiasi cosa indossasse era automaticamente chic. Un re abdicò per una donna americana pluridivorziata e questo accadde una volta sola nella storia. È incredibile che lei tenesse il re in suo potere, probabilmente per qualche ragione che noi non conosciamo, ma sicuramente il suo stile era una delle ragioni. Per chi viveva in quell'epoca in America o anche nel resto del mondo, la duchessa di Windsor era il più intoccabile esempio di glamour, associata ad una delle più romantiche storie del nostro tempo. One of the most romantic stories of all time. Eh sì, una storia romantica ma anche strana, con una donna con una personalità straordinaria, frutto di un'intelligenza non comune, però una donna che arriva a portarsi via lo scapolo d'oro del momento, il miglior partito dell'epoca, a 40 anni, in periodi in cui a 40 anni una donna insomma era quasi sulla via del declino. Bene, lei riesce a fare innamorare quest'uomo. Allora bisogna cercare di capire chi era questo fenomeno di donna, chi era Wallis Simpson. Dobbiamo scoprirlo assieme. Wallis Warfield, questo è il nome da ragazza di Wallis Simpson, nasce a Blue Ridge Summit, che era una piccola cittadina nel cuore della Pennsylvania, il 19 giugno del 1896. Famiglia della buona borghesia, gente benestante alla quale non manca nulla, ma certo nulla delle cose che sarebbero accadute più avanti. Lei, Wallis, è una ragazza che non si accontenta di una vita qualsiasi, vuole arrivare in cima al mondo e capisce fin da ragazzina che l'unico modo che ha per farlo passa attraverso le relazioni che riuscirà a intrecciare con gli uomini, soprattutto quelli potenti. Insomma, capisce di essere una che si siede sul proprio destino. Betsy Priolo, autrice di un libro sulla vita delle grandi seduttrici della storia, parla di Wallis in questi termini. Wallis è il classico esempio di donna che conduce l'uomo alla dannazione attraverso la sua fascinazione e i suoi poteri sessuali. Wallis ha un posto in alto nel pantheon delle donne accusate della caduta e distruzione di grandi uomini. Come Maria Antonietta, accusata di aver portato l'aristocrazia francese alla distruzione, Wallis allo stesso modo fu accusata di aver portato alla distruzione il regno di Edoardo VIII. Bisogna però dire che ai tempi di Wallis non esisteva alcuna altra opzione per una ragazza, tranne il matrimonio. Solo il 3% delle donne andava all'università e il matrimonio era l'unica speranza, l'unico fondamento per ottenere potere e sicurezza. Insomma, la giovane Wallis, per poter sperare in qualcosa di più, deve trovare un marito adeguato e quindi la scalata parte da questo. 1916, quando una cugina sposata a un aviatore la invita a casa sua in Florida. Qui Wallis conosce Winfield Spencer, un pilota pioniere della Marina. È un uomo di mondo, molto più vecchio di lei. Pare piuttosto depravato. Lei lo sposa e i due iniziano a viaggiare per lavoro, per il lavoro di lui. Passano un lungo periodo in Cina, a Shanghai, dove la giovanissima americana entra in contatto con gli ambienti completamente nuovi del mondo orientale. Insomma, scopre con il marito il mondo dei bordelli orientali e qui apprende l'arte del Fang Chung. Attenzione, segnatevela questa, una pratica Tao che ha lo scopo di portare all'estasi l'uomo e di moltiplicare il suo piacere durante i rapporti amorosi. Fang Chung, mi raccomando. Il matrimonio giunge in fretta al capolinea, come c'era da aspettarsi. Wally si consola spesso, ma non con uno qualsiasi, con un certo Galeazzo Ciano, che si era appena sposato a Edda Mussolini. A quel tempo era console generale a Shanghai e diciamo che la lontananza evidentemente deve averlo stimolato verso rapporti più piacevoli. Wallis parlerà di questa relazione burrascosa in alcune sue lettere. Ci fu un'attrazione molto particolare, ma sapevamo perfettamente che la nostra storia non sarebbe continuata fuori dai confini cinesi. Lui però non si dimenticò mai di me. Gli uomini, dopo avermi incontrata, non si dimenticano mai di me. Peccato che da quella relazione io uscii molto malconcia fisicamente. Sì, non pensate male, malconcia fisicamente nel senso che è rimasta incinta e ha dovuto abortire. La Cina non va più bene per lei, è ora di cambiare aria, così divorzia dall'anziano primo marito e se ne torna negli Stati Uniti, va in vacanza a New York dove incontra Ernest Simpson. Numero 2, ricco americano residente a Londra, e lei è determinata a cambiare vita, vede in lui lo strumento per riuscirci. C'è un ostacolo: Ernest è già sposato, ma per lei gli ostacoli non esistono, diventa la sua amante, probabilmente mette un po' in pratica le tecniche apprese nelle case di piacere cinesi e la moglie viene sbaragliata. In breve tempo Ernest ottiene il divorzio e la giovane Wallis diventa l'elegante e raffinata signora Simpson. Wallis Simpson abita in una bella casa a Londra e frequenta il bel mondo, i salotti che contano, le personalità legate alla casa reale. L'elegante e raffinata signora Wallis Simpson frequenta il bel mondo londinese, si dà parecchio da fare e il marito è impegnato con la sua impresa di cargo navali e lei si diverte. Il suo nuovo amico è un altro famoso, Joachim von Ribbentrop, ambasciatore di Hitler, futuro ministro degli esteri tedesco. Lui si innamora di Wallis, ogni giorno le manda 17 garofani, non si sa perché proprio 17, perché solo garofani. Peraltro l'ambasciatore del Reich è anche un uomo conteso da tutte le signorine della capitale inglese, di fatto è cotto e stracotto e vorrebbe sposarla. Ma lei ha altre mire, perché ha scoperto che l'erede al trono d'Inghilterra, il principe di Galles Edoardo, è uno scapolo molto affascinante. Si va sul bersaglio grosso, anzi grossissimo, proprio sul centro. Si dice che il principe sia un collezionista di avventure amorose con le signore del bel mondo, ma per lei nessun uomo è irraggiungibile, neanche un futuro re. E lei punta in alto, molto in alto, quindi quando ha occasione di incontrare Lady Thelma Farnes, che è l'amante di turno del principe, se la fa amica e la frequenta assiduamente, e da lì a venire presentata a corte, il passo è breve. Thelma presenta Wallis a Edoardo, che racconterà il loro incontro in un'intervista rilasciata molti anni dopo. La signora Simpson ed io ci siamo incontrati la prima volta durante un weekend in casa di amici a Milton Melbury, nell'Leicestershire. Faceva un freddo terribile e lei non si sentiva molto bene. La nostra prima conversazione fu sorprendentemente vuota e banale. Parlammo della mancanza del riscaldamento centrale nelle case delle campagne inglesi. Mi colpì enormemente la sua grazia e la dignità dei suoi movimenti. Era la donna più indipendente che avessi mai incontrato e da quel momento la mia segreta speranza fu che un giorno io potessi dividere la mia vita con lei. Come questo fosse possibile, ancora non lo sapevo. E noi non sapremo mai se questa è realmente una storia d'amore, una storia di arrivismo o forse tutte queste cose messe assieme. Falco e il Gabbiano. stiamo parlando di una delle figure femminili più controverse del Novecento, dello scorso secolo. Stiamo parlando di Wally Simpson, la donna che fece tremare dalle fondamenta la monarchia inglese, una donna americana già due volte divorziata, per la quale il re d'Inghilterra Edoardo VIII abdicò in favore del fratello Alberto. Avete capito bene, rinuncia alla corona di Inghilterra per amore. Alberto diventerà re con il nome di Giorgio VI e era il padre dell'attuale infinita regina Elisabetta, infinita perché 60 anni che è sul trono. Lui abdica, Edoardo, perché non sopporta l'idea di regnare senza avere al suo fianco la donna amata. Non può sposare Wallis perché lei è divorziata e perché si era già sposata in chiesa. Per la religione anglicana non è una donna libera. E il re, che peraltro, ricordiamolo, il re d'Inghilterra è il capo nominale della chiesa anglicana dopo lo scisma di Enrico VIII, quindi non può sposarla secondo i criteri previsti dalla monarchia. E poi Wallis non è proprio la donna che si presume gli inglesi vorrebbero come regina. Si è sposata due volte, ha avuto numerosi amanti anche tra i nemici della guerra, Ciano e von Ribbentrop, amanti avuti anche alla luce del giorno. È considerata senza ombra di dubbi una arrampicatrice sociale, una seduttrice senza scrupoli. Ascoltate come la descrive la scrittrice Anne Sebba, che è l'autrice della biografia della duchessa di Windsor intitolata That Woman. Wallis had charisma. Wallis aveva carisma, non c'è altro modo per descriverla. Quando entrava in una stanza tutti gli occhi erano puntati su di lei. Era capace di stabilire un contatto visivo molto potente, facendo sentire l'uomo che stava guardando l'unico uomo nella stanza. E questo trucchetto terribilmente sexy funzionava. Edoardo conosce Wallis e cade inesorabilmente in trappola. La donna esercita su di lui un dominio totale nella mente, nei sensi. Si dice che il futuro re Edoardo VIII non sia il Latin lover che i giornali di gossip descrivono definendolo lo scapolo d'oro d'Europa. In realtà lui è un uomo molto timido, molto emotivo. Non è tagliato per fare il re, si vocifera insomma che non sia neanche molto propenso alle relazioni amorose, ma non sia proprio un grande amatore. Le indiscrezioni che trapelano parlano di un uomo immaturo sessualmente, incapace di rapporti completi. Insomma, avrebbe bisogno di quella che volgarmente una volta si definiva la nave scuola, una donna abile con esperienze e le sue esperienze orientali sono concrete, ne abbiamo già parlato, con esperienze che facciano superare le reticenze reali del principe. E quando prendi un uomo su questi argomenti, insomma, te lo sei conquistato. Il gioco è fatto, l'erede al trono è innamorato perso. Per lui il fatto che Wallis non sia una bellezza è una cattiveria degli invidiosi. Il fatto che sia divorziata, risposata, è un ostacolo sormontabile. In fondo lui può tutto, è il futuro re, però questa relazione non piace a nessuno. Non piace al re Giorgio, alla regina madre, non piace al primo ministro Stanley Baldwin, non piace nemmeno ovviamente ai prelati della chiesa anglicana. Oltretutto lei ha 40 anni, è anche un'età un po' delicata, perché ricordiamoci che chi sposa il re d'Inghilterra è obbligata a dargli un erede quanto prima. 40 anni in quel periodo lì non erano una garanzia di prolificità. Le cose si complicano quando muore il re Giorgio. Siamo nel 36, Edoardo sale al trono d'Inghilterra. Gli inglesi lo amano perché è un regnante anticonvenzionale, non ama l'etichetta di corte, si fa vedere in mezzo alla gente, si occupa delle esigenze del popolo, però il problema rimane, il problema Wallis. Di fronte alla ennesima richiesta ufficiale del primo ministro di porre fine alla relazione con That Woman, quella donna, il re risponde così: ho detto a Mr. Baldwin che sposerò la signora Simpson, sul trono o fuori dal trono. E quindi la signora Simpson diventa una questione di Stato in Inghilterra e diventa la protagonista incontrastata del gossip di tutto il mondo. Cioè, altro che una Lady Diana moltiplicata a 100. Un re dell'importanza del re d'Inghilterra dichiara che vuole sposare una donna divorziata, risposata di nuovo in via di divorzio, nota per essere stata l'amante di uomini tipo Galeazzo Ciano, l'ambasciatore tedesco. Ricordate che siamo nel 36. i casini che ha avuto Carlo adesso, 70 anni dopo per sposare Camilla, portateli a 70 anni prima. Una donna peraltro definita di facili costumi, probabilmente anche ha ragione, una donna non bella, non giovane e fa discutere anche solo se respira. Ma cosa avrà la signora Simpson per fare innamorare così tanto il suo re? Se lo domandano un po' tutti, l'opinione pubblica si divide tra innocentisti e colpevolisti. C'è chi crede all'idilio, quindi alla fiaba del re e della sua amata, e c'è chi crede allo scandalo, riconoscendo in Wallis, e in effetti qualcosa c'è, tutti gli elementi della arrampicatrice sociale desiderosa solamente di sedersi sul trono. La posta in gioco è altissima, ci si mette perfino la Chiesa, che attraverso un suo alto rappresentante, il vescovo Stiers, eleva un monito nei confronti del re. Per salvare in Dio la famiglia, la nostra Chiesa deve opporsi al matrimonio di persone divorziate. Ci auguriamo che Sua Maestà sia disposto a fare un grande sacrificio personale per la salvezza del popolo che è stato chiamato a governare. Qui le cose si mettono male, eh? Però il re non ha intenzione di rinunciare al suo amore e lui va in giro in compagnia di Wallace. Sono la coppia più glamour che cammini sul suolo britannico. Lui è bellissimo, sembra più un attore di Hollywood che un re, un po' un Robert Redford della stangata, con una eleganza abbastanza evidente, si fa notare. E poi c'è lei, e non è diventata bella di colpo, però ha fascino da vendere. Poi sapete che, insomma, quando si diventa famosi, al centro dell'attenzione, con un budget illimitato per i vestiti, tutto diventa ancora più facile, e quindi la sua consapevolezza del suo fascino la rende ancora più magnetica. Vestita dai grandi sarti, diventa un'icona di stile, le loro apparizioni in pubblico sembrano le prove generali del matrimonio e della incoronazione di Wallis a regina d'Inghilterra. And all around the air did say, my lady soon will stir this way in sorrow now. Contro la ragione di Stato non si va e non si può andare, non c'è una soluzione. Lei è pluridivorziata, non può sposare il re in Chiesa, non è la regina adatta al Regno Unito, non si sa se può fare figli e fallisce perfino l'intervento di Winston Churchill, che propone un matrimonio morganatico. Edoardo sposerà Wallis, ma lei non potrà diventare regina, e il governo si oppone a questa proposta di Churchill perché scardinerebbe, insomma, tutto il protocollo regale. Alla fine neanche il matrimonio morganatico riesce a mettere d'accordo politica, chiesa e monarchia. Le cose ormai si sono spinte troppo in là, il re deve decidere o il regno o Wallis. Nel mezzo di questo sconvolgimento politico e mediatico, Wallis sparisce improvvisamente e si rifugia a Cannes in Francia, sta fuori dai giochi, e questo è il colpo d'ala, perché scrive una lettera a Edoardo invitandolo a non abdicare, capito? A non rinunciare al trono per lei, a cercare una soluzione più facile. Insomma, gli dice, amore, lasciami e vai incontro al tuo destino. In fondo, in tempi più recenti, anche suo nipote Carlo ha sposato Lady Diana, ma aveva una relazione segreta con Camilla, lo sanno tutti, con anche gli sviluppi tragici che poi conosciamo. Quindi una soluzione che metta d'accordo tutti si potrebbe anche trovare, ma Edoardo non è quel tipo di uomo, prende la sua decisione irrevocabile. È il 10 dicembre 36. Infine, ho la possibilità di dire poche parole. Non ho mai voluto nascondere nulla, ma fino ad oggi non era stato costituzionalmente possibile per me parlare. Alcune ore fa ho abdicato i miei doveri come re ed imperatore. Ed ora che ho passato la mia corona al Duca di York, le mie prime parole devono essere di augurio per l'impegno che gli ho lasciato. E questo lo faccio con tutto il mio cuore. Tutti voi conoscete le ragioni che mi hanno obbligato a rinunciare al trono. Ma voglio che capiate che nel prendere questa decisione non mi dimentico della nazione e dell'impero che come principe di Galles e poi come re ho cercato di servire negli ultimi 25 anni. Ma dovete credermi se vi dico che trovo impossibile portare il gravoso peso delle responsabilità e svolgere i miei doveri di re così come vorrei fare senza l'aiuto e il supporto della donna che amo. E voglio che sappiate che questa decisione che ho preso è mia e solo mia. E qui sarebbe bello aprire un dibattito. Chi era Edoardo? Quindi uno un po' babbeo, irretito da una maleiarda che in qualche modo lo aveva reso poco propenso a capire la situazione, oppure l'uomo innamorato che tutte le donne sognano, cioè un uomo che ha una nobiltà d'animo tale da rinunciare al regno per amore? Non lo sapremo mai. E lui compie comunque questo grande rifiuto, abdica in favore del duca di York, che è il titolo assegnato dalla monarchia al secondo genito maschio, il suo fratello minore Alberto, che sale al trono con il nome di Giorgio VI in onore del padre Giorgio V, creando indirettamente la fortuna di Elisabetta, che era la figlia proprio di questo Giorgio VI. Il mondo è attonito, molti, forse tutti, hanno dubitato che il re sarebbe arrivato fino a questo punto. E intanto abbiamo lasciato Wallace in Francia, non si è espresso ufficialmente, così inizia a serpeggiare una convinzione. Ora che Edoardo non è più re, magari Wallace, quella che tiene gli uomini in pugno con le sue raffinate arti di seduttrice, probabilmente lo lascerà. Cioè, c'è anche questa ipotesi, un epilogo ancora più beffardo. Cosa se ne fa di un duca destinato all'esilio, lei che voleva essere regina d'Inghilterra? Ma qui c'è il secondo colpo d'ala della nostra americana. Il 3 giugno 1937, nel castello di Candé a Monza in Francia, Wallis Simpson sposa il suo Edoardo, duca di Windsor, e diventa anche lei duchessa di Windsor, anche se in realtà a Windsor non ci potrà mai andare, sono in esilio. E questa è un'altra cosa, come dire, dolorosa di tutta questa storia. Ascoltiamo la biografa Anne Seba. Una volta resasi conto che era effettivamente in esilio, che era stata allontanata indesiderata, Wallace usò la moda, che divenne la sua arma. Fece di tutto per apparire straordinaria, come a dire: guardate che cosa avete perso se fossi stata la vostra regina. La moda parlava per lei. Eh sì, la coppia reagisce in questo modo. Pentitevi voi inglesi di non avere agevolato la nostra storia d'amore. Così diventa la coppia più famosa del mondo per la vita brillante e mondana che conduce, per la eccentricità e il glamour del loro look straordinario. Sentiamo ancora Anne Seba. Lui sentiva che era stata lei a rinunciare a tutto per lui, che era stata lei a perdere il buon nome, che non poteva più entrare in Inghilterra, che era stata punita per non avere le caratteristiche idonee a diventare regina. Come poteva fare lui per ripagarla di tutto questo? Ricoprendola di gioielli incredibili, straordinari, enormi, li definirei quasi ingombranti. Noisy pieces. Insomma, i duchi di Windsor suscitano critiche molto aspre in patria per il loro stile di vita, per le loro frequentazioni. Per esempio, hanno rapporti con Hitler, si dice addirittura siano suoi simpatizzanti, vanno a trovarlo addirittura pochi mesi dopo il loro matrimonio. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale scoprono che la duchessa ha mantenuto contatti, speriamo solo platonici, con il suo ex amante Joachim von Ribbentrop durante la Seconda Guerra Mondiale. Non so se mi spiego. La situazione è rischiosa. Il primo ministro inglese nomina Edoardo governatore delle Bahamas, che sono una colonia britannica ben lontana dalle scene di guerra. Insomma, lo vogliono allontanare dall'Europa, dalla politica, dai suoi contatti con la Germania. Quando finisce la guerra, loro rientrano a Parigi, dove rimangono fino alla loro morte. Edoardo muore nel 72, Wallace 14 anni dopo, nell'86, chissà perché, ma queste storie qui, le donne muoiono sempre molto dopo gli uomini. Un matrimonio durato 36 anni a dispetto di tutti quelli che non credevano all'amore di Wallace per il suo re. Lei è stata una donna incredibile, ha ispirato libri, romanzi, biografie, molti film. Tra i più recenti, V.A. Wallace and Edward, è un film diretto da Madonna che dice questo dei duchi. Sono sempre stata affascinata dalla storia del duca e della duchessa. Ogni volta che, ad esempio, ad una cena tiravo fuori il loro nome, scatenavo l'attenzione di tutti. Tutti si mettevano a discutere su chi erano, sulla loro vicenda. Quando ho approfondito la loro storia, i miei sentimenti nei loro confronti continuavano a cambiare. Un minuto prima ero affascinata e catturata, il minuto dopo ero irritata con loro e li giudicavo dei terribili superficiali. E poi subito dopo pensavo: ma no, sono due esseri umani, proprio come tutti noi. Quest'uomo lasciò il trono. Che cosa lo aveva spinto a farlo? Se era stato per una donna, cosa doveva essere questa donna? A voi l'ardua sentenza. Io non so dirvi se vi ho raccontato una bellissima storia d'amore, in fondo i due sono stati assieme per 36 anni, o se vi ho raccontato una storia di una arrampicatrice sociale, o se semplicemente vi ho raccontato la storia di due persone che hanno saputo combattere e scardinare le vetuste leggi della corona britannica. E i colpi d'ala comunque sono stati parecchi, come avete potuto notare. Se volete mandarci dei vostri commenti, segnalarci altre vite come quella di Wally Simpson che ci ha fatto discutere durante questo pomeriggio, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul sito www.radio24.it oppure venite a cercarci e a cercarmi nei nostri e nei miei social, insomma se volete mi trovate. Ciao, a domani. That someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.